Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:11 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: le banche venete e le audizioni alla commissione bicamerale d'inchiesta sulle banche. Perché lo dico? Perché oggi è stata la volta, questa mattina, del responsabile della vigilanza bancaria di Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, presso la commissione parlamentare d'inchiesta appunto sulle crisi bancarie. Tutto il tema anche degli ex dipendenti della Banca d'Italia andati a lavorare per la Popolare di Vicenza, dopo che la Banca d'Italia 2 giorni fa aveva chiarito che 3 giorni fa per la precisione che nessuno degli ex dipendenti avesse mai svolto ispezioni nei confronti della Popolare di Vicenza. Resta il tema se sia opportuno che chi comunque lavora nella Banca d'Italia e sviluppa un insieme di contatti e relazioni possa andare a lavorare in una delle banche vigilate, cioè praticamente tutte, adesso non tutte perché c'è la Banca Centrale Europea che vigila sulle 10 principali. Devo dire che su questo anche Barbagallo ha detto giudico inopportune le assunzioni da parte della Popolare di Vicenza e anche degli altri soggetti vigilati di ex dipendenti della Banca d'Italia. L'ho detto più volte, ma oltre la moral suasion non si può andare. Allora la normativa lo consentiva, ora con le nuove norme non è più possibile. E vabbè, faremo il punto anche di questo. Parleremo anche di banche intese come tassi di interesse, perché oggi si è mossa la Banca Centrale d'Inghilterra. La Bank of England ha deciso di alzare i tassi di interesse nel Regno Unito dallo 0,25 allo 0,5%. Non è un dato solo, diciamo, numerico, perché è anche a livello simbolico e storico, è la prima volta dal luglio del 2007, cioè da quando poi, secondo alcuni, iniziò lì la grande crisi finanziaria, secondo altri la data è ottobre del 2008, quando c'è il crack Lehman Brothers. In realtà hanno ragione tutti e due, perché già nel 2007 ci fu, se qualcuno lo ricorda ancora, il crack di Bear Stearns e si aprì il dossier mutui subprime. Detto questo, è la prima volta che i tassi vengono rialzati in Gran Bretagna dalla pre-crisi. E anche di questo parleremo, visto che appunto c'è la nomina, tutti danno ormai per scontato, Jerome Powell come neo presidente della Federal Reserve. Janet Yellen, tra l'altro, anche qui come dato statistico, lascia la guida della Federal Reserve in quella che è stata la presidenza più breve da 40 anni, nel senso che era abitudine negli Stati Uniti che uno facesse almeno 2 mandati. Greenspan, se non ricordo male, ne fece 3, però vado a memoria. Però dico, la presenza più breve è quella di Janet Yellen, che comunque lascia, come vi ricordavamo anche ieri, un'economia americana tutt'altro che in difficoltà, pur con varie criticità all'interno, soprattutto sul fronte salariale, di qualità dell'occupazione. Parleremo anche di pensioni, perché oggi c'è il pressing, diciamo così, dei sindacati per fermare l'automatismo dell'incremento dell'età pensionabile, quello che dovrebbe portare, per effetto dell'aumento dell'età di vita media, ne abbiamo parlato molte volte, a una pensione dal 1 gennaio 2019 per l'uscita di vecchiaia a 67 anni, questo dopo i 5 mesi di aumento dell'aspettativa di vita certificati dall'Istat. L'incontro è stato convocato dal Premier Gentiloni, è iniziato verso le 16, sono presenti tutti i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, anche il Ministro del Lavoro Poletti e dell'Economia Piercarlo Padoan, nonché della Pubblica Amministrazione Marianna Madia. Qualcuno mi sta facendo la battuta, ecco, convocare i sindacati il 2 di novembre, vabbè, ma non è lugubre la convocazione, perché anzi si cerca, da quello che abbiamo capito, probabilmente il governo sospenderà la misura in attesa che se ne occupi il prossimo governo, cioè quello che ragionevolmente, visto che insomma si deve andare a votare tra marzo e aprile, si insedierà in carica. Vedremo come andranno le elezioni, vedremo se si riuscirà a formare sin da subito un nuovo governo. Comunque, anche di questo ci occuperemo per quello che riguarda il tema pensioni. La borsa, invece, allora, Tenaris più 9,40 è il titolo oggi in maggiore evidenza in una piazza affari che complessivamente è piatta, più 0,16%, negativa Parigi meno 0,14%, Francoforte meno 0,22%, Londra più 0,90%, Dow Jones più 0,11%. L'euro è sempre fermo a quota 1,16, un po' più in rafforzamento rispetto a ieri che era 1,16,11, 1,16,58. Oltre a Tenaris, una trimestrale sopra le attese, vede una crescita nel 2018, tra l'altro i ricavi sono andati a 1,3 miliardi nel terzo trimestre, netta crescita, l'utile netto va a 105 milioni dai 17 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente grazie ad ammortamenti e tasse più bassi. E, tra l'altro, confermata la crescita dei ricavi e degli utili già nel quarto trimestre e in tutto il 2018. Ecco perché il titolo va così bene. Poi molto bene Biperbanca più 3,50, Telecom Italia più 1,80 come Unicredit, l'1,50 lo guadagna UbiBanca e Mediobanca, Banco BPM più 1,1, Saipem più 0,90%. Il fronte opposto, Ferrari meno 3, Mediaset meno 2,40, Buzzi Unice meno 1,60, Moncler meno 1,5, Campari pure ricordati meno 1,30 come Yux Net-a-Porter, Leonardo meno 1. Lo 0,90 lo perdono sia ST Microelectronics che Case New Holland. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook del programma. Petrolio stabile ma sempre a 54,2 dollari al barile il WTI. Per quello che riguarda i grandi gruppi petroliferi, ieri commentavamo la BP che ha avuto utili fatturati in crescita, British Petroleum, oggi la volta di Royal Dutch Shell, terzo trimestre con utili quasi triplicati a 4 miliardi grazie al recupero delle quotazioni del petrolio e grazie anche, come spiegava ieri Sissi Bellomo, a un maggiore efficientamento e produttività. Insomma, le compagnie petrolifere in questi anni di magra si sono abituate anche a aumentare l'efficienza interna, l'efficienza anche sui costi di estrazione. Restando sul fronte dell'economia internazionale, il Bitcoin, allora io non voglio tornare sulla polemica di ieri, visto che abbiamo criticato l'ipotesi che vi possa essere anche un future sul Bitcoin. A me sembra di tornare proprio a pie pari al pre-2007, cioè un future su una moneta che è virtuale e che viene utilizzata soprattutto come investimento speculativo e non come moneta di scambio. A me sembra proprio l'apoteosi della carta su carta, della speculazione su speculazione. Detto ciò, oggi abbiamo anche fatto notare, uno può fare quello che vuole, che investe in Bitcoin se gli piace il rischio e la volatilità. Oggi Bitcoin prima ha toccato per la prima volta i 7.000 dollari, poi nel giro di 25 minuti ha perso 600 dollari di valore. Uno mi può dire, beh vabbè, capita anche ai titoli azionari di fare meno 5, meno 8, sì, non in 25 minuti, tranne grosse notizie. Il problema è che Bitcoin un mese fa era a 3.400 dollari, cioè era il 50% in meno. Detto questo, prendiamo atto e registriamo l'oscillazione di oggi del Bitcoin. Stati Uniti, allora, richieste di sussidi della disoccupazione ai minimi da 44 anni, un dato migliore delle attese, praticamente quota 229.000 le richieste di sussidi della disoccupazione contro un'ipotesi di 5.000-6.000 unità in più. Dato è importante perché dall'aprile del 1973 non si vedeva un livello così basso nelle richieste di sussidi di disoccupazione negli USA. E buona notizia anche per la produttività dei lavoratori americani, che è salita del 3%, l'incremento maggiore da 3 anni a questa parte. Ecco perché dico che poi complessivamente Janet Yellen lascia, non è che sia merito solo suo, però insomma ha preso in mano una situazione assolutamente delicata. Fu nominata da Barack Obama nel 2014, l'America ancora si stava leccando le ferite per quanto fosse già in fase di crescita rispetto alla crisi. Lascia una situazione sicuramente erosea. Tra l'altro oggi segnalo dagli Stati Uniti che i repubblicani hanno presentato il Tax Cuts and Jobs Act per riformare il sistema delle tasse negli Stati Uniti. La misura prevede un calo delle aliquote per le aziende al 20% dall'attuale 35%, lascia invece invariata l'imposta del 39,6% per i più ricchi. Veniamo all'Europa, o meglio alle dichiarazioni del premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz, che è in Italia in questi giorni. Ricordavamo che terrà una lezione magistralis anche a Bologna tra 2 o 3 giorni, adesso vado a ricercare la notizia. Oggi ha parlato ad Ancona, dove è stato insignito della laurea honoris causa in economia e commercio internazionale. Ha detto: attenzione, le non necessarie politiche di austerità imposte dall'Unione Europea e dall'area euro devono finire per fare in modo che anche l'Italia possa seguire una politica di crescita. Ha detto Stiglitz: in Italia c'è anche un alto debito, ma il problema è soprattutto nel rapporto debito-PIL. Ridurre le spese non ha mai funzionato, bisogna fare in modo che l'economia cresca con gli investimenti. Per questo la cosa importante è che queste politiche di austerità finiscano, in modo che l'Italia possa seguire una politica di crescita. Per crescere il paese ha bisogno di investimenti nelle infrastrutture, nelle persone, nella tecnologia, affinché le politiche portino più disuguaglianza, più uguaglianza e più crescita economica. È inutile che vi dica che sono d'accordo al 100% con Stiglitz, chi se ne frega dirà Stiglitz, anche voi, però è quello che ripetiamo, e che non vuol dire sbracare sul fronte della finanza pubblica, aumentare debito e deficit, vuol dire non impiccarsi per forza a un deficit all'1,2 quando al 2% non cambierebbe nulla, anche perché il ragionamento che fa Stiglitz è appunto nel rapporto deficit-PIL. È come se una società, un'impresa, continuasse solo a tagliare i costi e non avesse mai un fronte ricavi, e qui ognuno può fare il riferimento che vuole al posto in cui lavora. Perché prima o poi il taglio dei costi è importante, le inefficienze e quant'altro, ma se tu continui a pensare solo al denominatore, al deficit, e non pensi al numeratore, al PIL, c'è un momento in cui tu tagli, ma poi cos'altro puoi tagliare? Tra l'altro deprimi pure il ciclo economico. Come disse un mio amico, va bene, siamo con le pezze, diciamo, nel sedere, prima o poi finiscono anche le pezze. Se invece tu ti occupi del PIL, e cioè politiche di investimenti che facciano crescere l'economia, hai due effetti: uno, riduci comunque il rapporto, perché lo riduci, perché un PIL più grosso a parità di deficit fa calare il rapporto PIL-deficit, deficit-PIL. Dall'altro hai anche il vantaggio che il miglioramento di questo rapporto non è dovuto solo ai tagli, ma a una ripresa del ciclo economico. Lo so, sembra banale detta così, ma poi tradurre questa cosa in Europa è difficilissimo, perché comunque l'ossessione è sempre sulla parte deficit, conti pubblici, e mai sulla parte crescita. Chi è la persona con te in studio, Barisoni? Ho capito che avete la webcam, adesso ve lo dico, è un ascoltatore che ha vinto un premio per seguire il programma in diretta. Dunque, ancora vedo altri messaggi. Che ci racconta Barisoni di Visco dopo l'audizione? Adesso arriviamo all'audizione. A Rimini il segnale di Radio 24 di scarsa qualità, lo segnalo all'ufficio tecnico, devo andare avanti con il programma. Ancora poche notizie prima del primo tema: disoccupazione in Germania cala di 11.000 unità, il tasso è fermo al 5,6%, e poi il rapporto invece mondo delle imprese italiane dell'Istat. Allora, confermata la dimensione micro delle aziende italiane, quelle attive nell'industria e nei servizi di mercato sono 4.200.000 le aziende, occupano quasi 16 milioni di addetti, di cui 11 milioni di dipendenti, hanno una dimensione media, a mio avviso, ancora troppo piccola, 3,7 addetti. E il 5% è organizzato in strutture di gruppo e occupa circa un terzo degli addetti. Cresce comunque il valore aggiunto dell'industria dei servizi di mercato, più 4%, il dato è riferito al 2015, in accelerazione rispetto all'1,5%. Attenzione, il termine piccolo, abbiamo chiesto molte volte, più che piccolo o grande, è piccolo o nano, cioè tu puoi avere anche 5-10 addetti ed essere però nella cosiddetta filiera del valore e quindi produrre per chi, per una capogruppo, per chi genera valore, i famosi distretti che si stanno trasformando, come dicevamo lunedì, in dislarghi, e quindi i tuoi 10 addetti vanno benissimo, sei piccolo ma non sei nano. Puoi avere 80 addetti ed essere da solo contro competitors, concorrenti che ne hanno 800, e per quanto non ne abbia 80 sei nano. Non è un problema solo di numeri, di misure, è un problema di come ti inserisci nella catena, per chi lavori. Se tu sei subfornitore o fornitore di qualcuno che ha un grosso valore aggiunto, vai benissimo anche con 10 addetti. Certo che poi crescere non fa mai male a nessuno. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina appunto di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Sveliamo anche il nome del vincitore del premio per assistere alla diretta di Focus Economia. Oh, il vincitore si chiama Fabio Pavesi, un giovane stagista del Sole 24 Ore che vi siete abituati ad ascoltare in questi anni, quando qualcuno mi ha scritto tempo fa: quando c'è Pavesi c'è sfiga. Adesso ragazzi, non è che stiamo facendo una pubblicità, perché coniando un'altra pubblicità che riguardava un prodotto invece dolciario del nostro paese. No, non c'è sfiga, però ci sono criticità, perché Fabio Pavesi in questi anni ci ha accompagnato, ahimè, anche nel racconto, non l'unico, nel racconto delle crisi bancarie e di come sono state gestite. Allora, innanzitutto buonasera a Fabio. Buonasera, onorato di essere lo stagista vincitore. Bene, bene, bene, stagista di qualunque età. Allora, un'ultima flash d'agenzia. La Consob, in audizione in commissione d'inchiesta sulle banche, poco fa il direttore generale della Consob, Angelo Apponi, ha detto: nella vicenda delle due banche venete è emerso un ecosistema collusivo volto a occultare in maniera sistematica e fraudolenta informazioni al mercato e alle stesse autorità di vigilanza. Secondo il direttore generale della Consob, dalla circostanza che le azioni delle due banche fossero diffuse fra il pubblico ma non quotate, ne è derivata una significativa attenuazione dei poteri di vigilanza della Consob in materia informativa contabile e corporate governance rispetto a quelli disponibili per le società quotate. Apponi ha ricordato che la Consob ha sanzionato la Vicenza e i suoi esponenti aziendali per 9 milioni di euro e per 5 milioni e 600 mila euro Veneto Banca e i suoi esponenti aziendali in merito agli aumenti di capitale. Allora, siccome la vicenda ogni volta va ricordata anche in quello che la Consob chiama ecosistema collusivo, l'abbiamo raccontato molte volte, lo scontro in procura avvenuto a suo tempo, quando il giudice Cecilia Carreri e Foiadelli, capo procuratore di Vicenza, poi va a Treviso, abbiamo raccontato anche di assunzioni molto strane. Tra l'altro Foiadelli conclude la sua carriera in magistratura nel 2011, procuratore capo a Treviso, era procuratore capo a Vicenza, stranamente va a Treviso dove c'è Veneto Banca, dico stranamente, non ho detto altro. Questo invece non è strano, secondo me è sbagliato. Nel 2015 Zonin lo chiama nel CDA della Nord-Est Merchant, controllata dalla stessa Popolare di Vicenza. Non è l'unico passaggio sospetto. Luigi Amore, funzionario della vigilanza di Banca d'Italia, firma la verifica del 2001 e poi viene chiamato alla Popolare di Vicenza come responsabile dell'audit. Andrea Monorchio, dopo 13 anni come ragioniere del Generale dello Stato, entra nel CDA, nel Consiglio di Amministrazione della Popolare di Vicenza, e ne diventa vicepresidente nel 2014. Anche qui Monorchio non fa nulla di attività ispettiva, però è chiaro che se tu per 13 anni sei stato ragioniere generale dello Stato e hai, diciamo, in mano i bilanci del paese, qualche relazione ce l'hai. Il tuo nome è un nome importante. Giuseppe Ferrante, ex capo del nucleo di polizia tributaria di Vicenza, diventa responsabile della direzione antiriciclaggio della banca nel 2006. L'avvocato Massimo Pecori, figlio di uno dei PM di punta della Procura cittadina, ottiene incarichi per l'istituto, ma lui ha detto la Popolare ha centinaia di legali sotto contratto. Ho capito, ma forse il figlio di quello che doveva indagare sulla Vicenza non era il caso. Questo è l'ecosistema a cui fa riferimento la Consob. Caro Fabio, dopo il meteo e la pubblicità ti chiederò però se la Consob può semplicemente dire che c'è un ecosistema. Dice anche che il fatto che questi collocassero azioni non quotate ha limitato i suoi poteri di vigilanza. Io ricordo per alcune critiche dei delle associazioni dei truffati che dicono la Consob però aveva levato alcune informazioni sul profilo di rischio nei prospetti, e questo è importante anche perché vediamo hanno collocato queste azioni a gente o obbligazioni che aveva titoli di studio bassi o bassissimi. E poi dopo il meteo ascoltiamo anche la posizione di Barbagallo, che dice la crisi l'ha scoperta Banca d'Italia, gli amministratori hanno occultato le informazioni, l'ispezione della Banca Centrale Europea, il team era formato dalle stesse persone delle ispezioni precedenti. Perché lo dice? Poi sto zitto. Perché il bubbone a Vicenza e in Veneto Banca scoppia dopo che la Banca Centrale Europea assume la vigilanza diretta sulle prime 120 banche europee dal novembre del 2014. E lì scoppia. Allora molti hanno detto, beh, com'è che quando arriva sotto il controllo della BCE si scopre il bubbone? Faccio notare che allora, cioè nell'estate del 2014, le azioni della Popolare di Vicenza venivano ancora collocate a 62,50 euro, e a primavera dell'anno dopo il valore era a 48 euro, poi scendono a 6,03 euro e poi a 10 centesimi. Però Barbagallo ha voluto dire guardate che le ispezioni le hanno fatte gli stessi ispettori nostri. Comunque, a Fabio Pavesi l'analisi e il racconto dopo meteo e pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Il 23 giugno scorso il Consiglio di sorveglianza del Meccanismo di Vigilanza Unico Europeo ha dichiarato la prossimità al dissesto di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza. Il Comitato di Risoluzione Unico Europeo ha accertato la non sussistenza dell'interesse pubblico all'avvio di una procedura di risoluzione. Il 25 giugno le banche sono state poste in liquidazione coatta amministrativa con misure pubbliche a sostegno dell'ordinata fuoriuscita dal mercato, resa possibile dall'acquisizione in esito ad una gara condotta dalle autorità italiane in stretto contatto con quelle europee da parte di Intesa San Paolo, disponibile all'intervento a condizione di non peggiorare la propria situazione patrimoniale e l'esposizione al rischio di credito. Negli anni precedenti, i due intermediari sono stati colpiti dal forte aumento del rischio di credito provocato dalla crisi economica e hanno posto in essere pratiche irregolari e comportamenti scorretti. Crediti erogati con modalità anomale, non di rado in conflitto di interessi, inadeguate modalità di determinazione del prezzo delle azioni, operazioni di ricapitalizzazione cosiddette baciate, non dedotte dal patrimonio. La Banca d'Italia ha segnalato tempestivamente le irregolarità riscontrate all'autorità giudiziaria, con la quale l'interlocuzione è stata continua e aperta, al pari della collaborazione con la Consob. Così appunto il responsabile della vigilanza Carmelo Barbagallo. Allora, Fabio Pavesi, visto che proprio alcuni giorni fa sul Sole 24 Ore dico a chi mi scrive, era una battuta quella di Osso, qualcuno mi ha scritto, non potevate permettere a qualche ascoltatore vero e invitarlo come ospite anche, ma ragazzi stavo scherzando, è qua come ospite Pavesi. Allora, qualche giorno fa hai scritto su Sole 24 Ore che ammontano a 24 miliardi le perdite di 380.000 risparmiatori che avevano investito nelle sette banche fallite: Monte dei Paschi, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Cari Ferrara, Cari Chieti e Banca Marche. Non ci hai messo la Genova, però bisognerebbe aggiungere anche quella. Ci sono in particolare 175.000 azionisti di Monte dei Paschi che hanno perso 12 miliardi di euro, 120.000 azionisti della Popolare di Vicenza che hanno perso 6 miliardi e 200 milioni di euro, 87.000 soci di Veneto Banca che hanno perso 5 miliardi e un altro miliardo diviso tra le quattro banche, appunto Marche, Etruria, Carichetti e Cari Ferrara. Ora, 24 miliardi vuol dire più di una manovra finanziaria di un anno, questo per farci capire, che poi voglia dare benissimo anche decontribuzioni, ci mancherebbe, per i giovani o 80 euro, ma questo è il danno arrecato. Io devo ancora vedere iniziare i processi e i sequestri veri. Ah, sei giustizialista? No. In un paese normale, se fai saltare 24 miliardi di risparmi, qualcuno avrà anche speculato, ma da quello che vediamo dai profili, molti erano risparmi, che in questo senso sì, sudore di una vita, eh? Allora in un paese normale vai giù pesante. Invece qui, dopo la polemica di Renzi sulla Banca d'Italia, mi sembra che tutto stia ritornando così a sopirsi. Qual è la critica che si può fare alla posizione di Barbagallo e della Consob, che hanno ragione nel dire alcune cose, ma sembrano degli sceriffi disarmati, no? Cioè sono due autorità di vigilanza che hanno poteri ampi, non vedono i bilanci pubblici come li vedo io, vedono tutta una serie di altre cose, hanno poteri ispettivi. Loro dicono ci manca il potere dell'autorità giudiziaria, ho capito, però sembra un'escusatio non petita. Cioè Barbagallo chiude il suo intervento, sono 16 cartelle che io ho stampato, dicendo che la sintesi estrema è l'inadeguatezza del governo societario e l'autoreferenzialità del management. Allora, tu però sei messo lì proprio per quello, no? Perché se no non si giustificherebbe un'autorità di vigilanza sul mercato. È ovvio che ci sono state l'ecosistema collusivo. E voglio dire, se ci sono, tra virgolette, banditi in circolazione, tu sei lì per fermarli per tempo. Allora, le due banche venete, perché poi c'è il corollario degli interventi, no? Partono, Banca d'Italia parte a raccontare la vicenda dal 2008. Cioè dal 2008 Barbagallo sostiene che erano già sorvegliate speciali. Allora, se l'esito è che dopo 10 anni di sorveglianza speciale le due banche comunque falliscono, io dico che la vigilanza ha peccato, perché voglio dire, evidentemente non basta dire io ho visto e segnalato, perché vedete bene una cosa, le anomalie erano talmente ampie e Barbagallo in qualche modo in questa relazione pubblica una slide che in qualche modo sconfessa questa difesa d'ufficio. A pagina 16 fa vedere che le due banche venete dal 2009, quindi non da ieri, aumentano in modo anomalo i prestiti. Cioè il sistema bancario comincia a stringere i cordoni della borsa, le due banche venete aumentano addirittura del 25-40% dal 2009 al 2014 i prestiti alla clientela. Io fossi la vigilanza mi chiedo, ma perché questa anomalia? Cioè perché le altre banche stanno attente e queste due danno soldi a chiunque? Quindi i segnali erano talmente evidenti, e soprattutto quando dice che il prezzo non lo posso controllare Banca d'Italia e non sono quotate, anche lì Consob dice non sono quotate, ma la Consob, quando tu emetti titoli, che tu sia quotato o non quotato, poco cambia, perché hai emesso titoli, quindi tu devi comunque verificare la coerenza delle informazioni, non basta dire non essendo quotate è stato più facile, perché anche lì, se tu aumenti i prestiti in quel modo e contemporaneamente i tuoi crediti malati aumentano del doppio rispetto alle altre banche, stai dicendo guarda che lì c'è un problema grande come una casa. Se nel frattempo per fare gli aumenti di capitale al prezzo che Zonin stabiliva e stabiliva Consoli, che era assolutamente in congo, tu quel prezzo lo blocchi. Diciamo non potevamo perché lo decide il CDA con la consulenza dell'esperto indipendente, ma non basta. Che era il professor Bini? Che era il professor Bini? No, perché qualcuno me lo chiede, no, perché poi qualche nome lo faccio. Perché sì, professor Bini... ma c'è tutto un però gruppo. C'è un punto che fa Fabio Pavesi che secondo me è devastante e dirimente. Tu non puoi semplicemente dire, siccome non sei quotata in borsa, puoi stabilire il prezzo che vuoi, perché allora uno fa uscire il prezzo della Popolare di Vicenza a 400 euro per azione. E nessuno può dire una mazza, ma che discorso è? Tu dovrai avere anche una corrispondenza tra il prezzo di collocamento e gli asset della banca, certo, se no certo, ce li giochiamo all'otto sulla ruota di, in questo caso, allora, di Venezia. Se tu parlavi 3-4 anni fa con qualsiasi banchiere operatore, ti dicevano guardate che lì le due banche venete rischiano il collasso. E tutti lo dicevano 3-4 anni fa. Questa è l'altra cosa, ma perché cioè, lo dicevano gli operatori di mercato, le persone sveglie, gli operatori, chi sta sul mercato, ti diceva 3-4 anni fa, lì c'è un'anomalia grande come una casa. Se lo sapevano tutti, ci si chiede ma perché Banca d'Italia ci ha messo così tanti anni? E allora, Faccio un esempio. Voi ricordate Banca MB? Pochi lo ricordano. È stata commissariata da Banca d'Italia. Allora, Banca d'Italia ha il potere di commissariare le banche. Allora, uno si chiede, ma perché commissari sì, Banca MB? È strano MB? Che nel 2014 Banca d'Italia appoggiasse, non dico poi ha rettificato. Ah, ecco, l'altra vicenda è Vicenza con Etruria. Ecco, un esempio concreto. Allora, nel 2014, quando oramai le cose erano quasi conclamate, Vicenza lancia un'OPA sull'Etruria. A un euro. Allora, sapendo le condizioni di Vicenza, sapendo le condizioni di Etruria, tu quell'OPA scendi in campo e commissari la banca che lancia l'OPA e dice tu con quali soldi paghi l'Etruria che non li hai per te? Ecco, lì c'è stato un silenzio assordante. No, un silenzio che è stato colto come silenzio assenso. Sì, appunto. Perché c'è anche chi si è spinto a dire la Banca d'Italia vede con favore l'operazione. Noi questo non sappiamo, la Banca d'Italia dice che non ha fatto però nessuna non ha pressione. Fatto nulla per ostacolarla. Però sai, il silenzio delle volte può diventare... collusivo, sì, quello. Allora, su questo, qualcuno mi sta scrivendo, guardi che il Monte dei Paschi, nessuno ha perso niente e la banca non è fallita. Allora, un attimo. Scusate. No, perché un attimo scrivo più. Grottesco. Allora, una risposta la do io. Che il Monte dei Paschi non sia fallita, andate a raccontarlo in un altro programma, ma con tutti i soldi che i contribuenti hanno messo sul Monte dei Paschi, ma te credo che non è fallita. È come uno che adesso, vediamo, è ritornata in borsa, vedremo cosa farà Morelli, ma non ci pigliamo in giro. Ma abbiamo presente quanti soldi sono stati, miliardi sono stati messi nel Monte dei Paschi? Cioè, come dire che se ti tengono in vita con la macchina, cuore e polmone non sei morto. Ho capito! Ma cosa diciamo? Che sei sostanzialmente in buona salute? Poi, sui danni ai risparmiatori, spiegaci tu perché hai infilato anche il Monte dei Paschi come 175.000 azionisti. Beh, che hanno perso 12 miliardi. Beh, i soci erano 175.000 nell'ultima assemblea. Allora, il Monte dei Paschi ha fatto 4 aumenti di capitale dal 2008 per un importo totale di 18 miliardi. Quella roba lì è stata tutta bruciata nel falò della crisi della banca. Quei 18 miliardi sono soldi che i senesi in particolare, ma qualsiasi azionista, ha messo nella banca pensando che servisse a farla ripartire. 4 aumenti di capitale, non uno. I Monti Bond sono stati concessi come aiuto e ci vantavamo in Italia di non aver mai aiutato le banche con aiuti pubblici, avevamo dato solo dei Monti Bond. Anche lì forse i Monti Bond non andavano ritirati, anche perché li hanno ritirati e poi è stato fatto un aumento di capitale che ha bruciato tutti i soldi. Cioè la banca andava nazionalizzata almeno 4 anni fa, questo è il dato di fatto vero. Gli americani, quando le loro banche saltavano, le hanno nazionalizzate. Gli inglesi, con tassi di interesse, le banche sono state ripulite, cacciati i manager, si fa così. Se lo Stato entra dentro, poi deve cambiare completamente il registro. Adesso, siccome sono girate le scatole, andiamo sul traffico, dopo rientriamo con quella famosa frase di Profumo su quello che ha trovato al Monte dei Paschi e poi invece chiudiamo su la Popolare di Vicenza. Non cito la frase di Tremonti qui a Focus Economia che dice chiedetelo agli illuminati, è un'altra frase. E poi invece andiamo a capire quello che sta emergendo a livello di completamente di ecosistema, come l'ha definito la Consob. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. A chi mi dice ma perché insisti tanto, abbiamo capito. No, insisto per una questione di correttezza, cioè tu bruci 24 miliardi, ho capito che parte erano in azioni, parte erano in obbligazioni, parte erano... ma sono risparmi di cittadini, non abbiamo bruciato 24 miliardi di un fondo speculativo di investimento americano che uno dice vabbè, che pure quello gestisce comunque soldi di cittadini americani. Qui era gente, correntisti normali, azionisti normali, obbligazionisti normali. Cioè, ma io non so delle volte, comunque traffico. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Focus Economia. Purtroppo quando vedo dei fenomeni che non riesco a spiegarmi e vedo dei legami fra persone che non riesco a spiegarmi, parlo della massoneria, poi possiamo parlare di altro, però quando sono purtroppo un animale razionale e faccio fatica a capire alcune cose, quando ci sono troppe cose che non riesco ma a spiegare. Ma un nome e cognome la massoneria, no, Siena? nella sua esperienza. Cosa vedeva? Sì, non... ce la racconti la massoneria? No, beh, vedevo e ho visto, ad esempio, delle scelte di persone basate su motivi che non riuscivo a capire. Cioè, lei eliminava la competenza, il merito, magari rimaneva solo la massoneria, diciamo. Ci arrivava per eliminazione. Restavano le appartenenze. In genere si pensa, quando si parla di Siena, che le appartenenze fossero quelle verso il vecchio Partito Comunista, poi scavi e scopri che c'era una trasversalità, ad esempio. Allora dici, ma come mai c'è questa trasversalità? Qualcuno che è venuto da me mi ha detto, guarda, io sono massone, non c'è mai stato, no? Che valore aggiunto ti dà Flavio Carboni che non è nel Consiglio di Amministrazione? Che valore aggiunto dà? Non lo so, evidentemente darà dei valori aggiunti di legami, di introduzione ad altre persone e così via. Così Alessandro Profumo nel raccontare la sua esperienza da presidente del Monte dei Paschi era di martedì, sentivate la voce di Floris e anche di Giannini. Tra l'altro faccio notare che anche nell'inchiesta Etruria a un certo momento i vertici dell'Etruria si rivolgono a Flavio Carboni, che i più giovani non sanno chi è, ma i più vecchi sì, si chiamava Loggia P2 e quant'altro. Questo così chiudo la parità per ora con Siena e Arezzo. Per dare i nomi alle cose. Torniamo su Vicenza. Allora, il giornale La Verità oggi pubblica nuovi nomi di dipendenti di Banca d'Italia passati al servizio della Popolare di Vicenza e di Zonin. Oltre a quelli, cioè Luigi Amore, Mariano Sommella e Gianandrea Falchi, su cui Banca Italia si era già pronunciato ufficialmente, escludendo in ogni caso lo svolgimento di ispezioni. Ho capito, ma lavorano comunque in Banca d'Italia. Allora, sarebbero... c'è un quarto dipendente, Lucio Mestrina, autore di un'ispezione in Popolare di Vicenza nel 2001 prima di diventare direttore finanziario, e qui come la mettiamo? Nel 2004 diventa direttore finanziario. E poi altri tre ispettori cosiddetti passati al servizio di Zonin: Mario Lio, Giancarlo Nofri, Francesco Romito. Mario Lio è un ex ispettore, non che abbia investigato sulla Popolare di Vicenza, ma svolgeva il compito di ispettore, che viene assunto tra il 2003 e il 2004 come vice direttore generale di Banca Nuova, la controllata siciliana, l'acquisto di Zonin in Sicilia, della Popolare di Vicenza. Tra l'altro a Palermo spiegano che Lio, scrive La Verità, sia stato assunto poco dopo una verifica ispettiva fatta dallo stesso proprio in Banca Nuova. Poi c'è Giancarlo Nofri, ex ispettore, chiamato all'inizio del regno ventennale di Zonin per tenere i rapporti con i controllori di Via Nazionale. E ancora l'ultimo episodio, il consulente bancario Giovanni Grossi, figlio dell'ex ispettore Salvatore Grossi, tra il 2000 e il 2005 avrebbe rivestito il ruolo di capo dell'audit interno di Popolare di Vicenza prima di passare a Banca Italease. Oh, le ha fatte tutte. L'audit interno è quello che deve verificare che tutto vada bene, i controlli. Poi si è passato a Italease, che ricordo fu affossata nel 2007 con uno scandalo che rischiò di travolgere, anzi in parte travolse, i vertici della Popolare di Verona e Novara. Ti chiedo un minuto per commentare anche questa. Poi. Beh, è l'ecosistema collusivo che cita la Consob, però capite che se queste cose avvengono e poi nessuno pensa che scopo hanno, perché evidentemente lo scopo è di tenere buone le autorità, no? È un uomo... che i rapporti personali. E quindi anche la storia di Profumo, cioè voglio dire, lì è, pensiamo che le banche andate in crisi erano, MPS Carige in particolare, le fondazioni bancarie avevano il 60% del capitale, governava la politica, no? Allora, il tema delle fondazioni, no, sembrava di aver sottratto le banche, come dire, al capitalismo sfrenato. L'hai dato in mano agli enti locali, come mettevano lì magari a governare la banca, come nel caso della Fondazione Monte dei Paschi, gente che non c'entrava niente con la Veneto banca. Ma Banca e Popolare di Vicenza erano osannate dai vertici politici locali. Io Zonin l'ho conosciuto, certo. E anche bene, così come consoli, erano osannati. Sì. Cioè non è che la politica dicesse attenzione, no. E non ho visto... levate di scudi della politica veneta se non chiedere l'intervento dello Stato nei confronti di un minimo di autocritica, forse le avevamo in seno noi. Sì, sì. Cioè sono arrivati a, come si dice, a babbo morto, quando ormai i buoi erano scappati, a rilevare la tragedia di... Sì, ma ripeto, però ripeto, noi abbiamo degli sceriffi, Banca Italia e Consob, e insomma questi 10 anni dicono che gli sceriffi erano disarmati, tutto sommato. Vedremo se qualcuno avrà il coraggio o la voglia, più che il coraggio, di affrontare dopo le elezioni, non solo in campagna elettorale, dove è chiaro che questa cosa verrà fuori, dopo una riforma anche che renda più incisivi. Noi vogliamo più potere alla Banca d'Italia, più potere alla Consob, più regole sui conflitti di interessi, perché non vai a lavorare per le banche, sei un ex dipendente della Banca d'Italia, ti apri una macelleria, vai a aprire un negozio di abbigliamento, vieni a fare il giornalista, ma non vai a lavorare in una banca che hai vigilato anche indirettamente, che è vigilata dal soggetto per cui tu hai lavorato. Comunque, grazie anche a Fabio Pavesi, adesso c'è il GR24, mi calmo e poi andiamo su borsa e incontro governo sindacati e anche la BCE. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Minuti, adesso parliamo di borsa e soprattutto della Banca d'Inghilterra. Vedo un messaggio però di un ascoltatore che correttamente dice: io sono massone, mi dà anche il numero della tessera e l'alloggio qui è iscritto. Dice: ma cosa c'entra la massoneria? Non generalizzate, non è che se un giornalista si comporta male tutti i giornalisti, o se un prete si comporta male tutti i preti. La sintetizzo: nessuno ha detto che tutta la massoneria, abbiamo solo fatto ascoltare un passaggio di un anno fa almeno di Alessandro Profumo, da questo punto di vista, in quale si riferiva ad alcuni rapporti. Poi c'è chi, la magistratura indagherà, vedremo se è massoneria deviata, non deviata, cosa c'entra, ma mica abbiamo criticato tutta le logge massoniche. Uno può iscriversi alle logge che vuole. Il problema è quello che ha notato Profumo, che notava che in alcuni casi non c'erano criteri razionali per la scelta di alcune persone. Allora ti chiedi: vi sono altri criteri non logici questo in quella scelta? Ok, così. E per rispondere, è chiaro che se alcuni giornalisti si comportano male non vale per tutti i giornalisti né per tutti i preti, ma allo stesso modo uno si chiede anche che tipo di rapporti vi siano tra alcuni giornalisti o tra alcuni preti. Questo abbiamo detto, quindi non si offenda. Allora andiamo avanti con la borsa. Dicevo, oggi soprattutto in evidenza Tenaris, più 9,70% dopo una trimestrale, come ricordavamo, migliore delle attese. Vedo una crescita anche superiore alle attese nel 2018, confermato crescita di ricavi e EBITDA nel quarto trimestre. I ricavi sono saliti a 1 miliardo e 300 milioni di dollari contro i 987 dello stesso periodo dell'anno prima, e l'utile netto sale da 17 milioni nel trimestre a 105 milioni. Il titolo festeggia, più 9,70. Bene anche Biperbanca, più 3,60, Unicredit più 1,80, Telecom più 1,60, Banco BPM più 1,5, Saipem più 1,1 come Mediobanca, 0,90 lo guadagna Fiat Chrysler, lo 0,80, e rialzo invece di UbiBanca, Snam più 0,70, fronte opposto Ferrari meno 2,90, Mediaset meno 2,20, Campari meno 1,70 come Buzzi Unici e Moncler, l'1,20 lo perde Jux e Taporté, l'1% ricordati e Leonardo. Su Ferrari i conti sono buoni, ma il titolo già si era mosso molto nei giorni scorsi, a 100 euro per azione. Ha chiuso il terzo trimestre con risultati da record e quindi utile netto adjusted che è in aumento del 24% a 141 milioni, a 1 miliardo di euro il valore. E poi ancora i ricavi cresciuti a 863 milioni, più 7%. Consegne totali di Ferrari 2046 auto, in aumento di 68, più 3,5%. E alza tutti gli obiettivi. Il gruppo Ferrari per il 2017 porta i ricavi come obiettivo a 3 miliardi e 400 milioni di euro, sono 100 milioni in più. Per quello che riguarda Telecom c'è un po' di nervosismo, ma il titolo oggi si è mosso bene. C'è il consiglio di amministrazione per i conti del terzo trimestre la prossima settimana, mentre a New York è affondata la Tesla, che ha avuto perdite superiori alle attese e perde il 6% a New York. Parliamo però di più che di, adesso do anche i migliori e peggiori di Milano, oggi, di quello che avviene tra la Bank of England e la Federal Reserve in giornata. Comunque, migliori e peggiori, Molmed più 11,20, Tenaris più 9,70, Invest più 8,40, Accelero più 8,20. Tesla perde il 7,60 anche in Italia. Abitarin meno 5,60, Visibilia meno 5, Assiteca meno 5, Reply meno 4,40, Il Sole 24 Ore meno 4,34%. Vorrei parlare della Bank of England con Alberto Gallo, che è responsabile strategia e portfolio manager di Hargreaves, in collegamento con noi da Londra. Buonasera. Buonasera. Banca d'Inghilterra che dal 2007 non toccava i tassi, dal luglio 2007 li porta dallo 0,25 allo 0,5%. Nel frattempo, salvo sorprese incredibili, tutte le agenzie americane dicono che insomma sarà Jerome Powell il presidente. Addirittura Trump avrebbe parlato con il futuro presidente della Federal Reserve già martedì, lo riporta il Wall Street Journal. L'annuncio ufficiale è atteso per questa sera, ora italiana, pomeriggio, negli Stati Uniti. Come dobbiamo leggere, se vi è un filo rosso, le due notizie? Banca d'Inghilterra che aumenta i tassi e l'arrivo di Jerome Powell alla presidenza della Federal Reserve? Allora, il rialzo della Banca d'Inghilterra è un rialzo molto, molto conservativo, nel senso che oltre ad alzare i tassi, il governatore ha detto che ci saranno pochi rialzi nei prossimi 3 anni, forse 2 altri rialzi, quindi siamo quasi di fronte a un rialzo una tantum. Perché? Perché l'economia inglese è ancora sotto molta incertezza e non si sa bene come si evolverà il processo della Brexit. Per ora il programma del governo britannico è ancora molto incerto, non ci sono né un piano industriale né un piano economico strategico per ristrutturare l'economia, per passare ad un'economia che è ancora troppo incentrata sulla finanza e su Londra. Invece in America abbiamo Powell, che era il favorito, che è considerato un governatore abbastanza rilassato, quindi non un governatore che alzerà i tassi moltissimo, ma che creerà una certa continuità con la politica della Yellen. Ci sono delle possibilità che l'economia americana acceleri, soprattutto guardando gli ultimi dati, guardando il mercato del lavoro. La vera domanda è se nell'anno prossimo vedremo un po' più di inflazione, che finora non si è vista. Sì, devo dire che i dati di oggi dagli Stati Uniti erano più che buoni, i sussidi di disoccupazione ai minimi da 44 anni, dall'aprile del 1973, produttività dei lavoratori americani che è salita del 3%, anche qui nel terzo trimestre l'aumento maggiore da 3 anni, quindi i dati sono abbastanza buoni. Certo, l'inflazione non c'è ancora. Sì, non c'è ancora perché ci sono dei problemi strutturali nel mercato del lavoro e li vediamo anche in Germania, anche in Italia, cioè ci sono più lavori a basso salario e poi ci sono pochi lavori che vengono pagati molto bene, che però sono nella tecnologia e nei nuovi settori, ma non sono sufficienti a far aumentare il tenore di vita di tutta la popolazione, quindi in effetti c'è più diseguaglianza. Beh sì, il fatto che gli occupati sono tornati ai livelli pre-crisi, ma con salari e qualità del lavoro diversa. Questo è. Prego. Esatto. Con salari più bassi nella media e quindi abbiamo non solo il quantitative easing che ha aumentato la ricchezza dei ricchi, ma anche la tecnologia che spinge per una polarizzazione dei salari, perché chi lavora nella West Coast, nella tecnologia o nella finanza a New York fa molti più soldi rispetto a chi lavora nel Midwest. E questo però è un problema che i banchieri centrali non possono risolvere, perché il loro strumento è uno solo, il tasso, che va ad applicarsi a tutto il paese, non hanno degli strumenti microeconomici. Quindi diciamo che a livello globale sia la BCE sia la Bank of England a Londra, sia la Federal Reserve stanno cercando di togliere il piede dall'acceleratore, però lo stanno facendo in modo molto molto cauto, senza voler creare degli scossoni. E lei ritiene, se ho ben capito, che anche quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il nuovo presidente della Federal Reserve dall'anno prossimo, Jerome Powell, adotterà lo stesso, diciamo, approccio. Sì, in generale sì, questo crea una calma sul mercato, quindi il mercato ha la volatilità degli indici azionari, anche le obbligazioni, anche il BTP finalmente è sceso, anche se secondo noi dovrebbe scendere ancora di più come spread, tutto il mercato è abbastanza calmo, però questo poi crea anche un problema di rischio per quando potenzialmente ci possa diciamo tornare la volatilità. Perché? Perché tutti gli investitori si stanno esponendo sempre di più a comprare azioni, a comprare obbligazioni rischiose. Perché quindi rendono meno altri forme di investimento. Beh, penso a Bridgewater, che ha scommesso contro le banche italiane. Io spero che Bridgewater abbia assolutamente torto, ci mancherebbe. Ringrazio intanto Alberto Gallo, responsabile strategia e portfolio manager di Algebris. Qualcuno mi scrive perché chiamate Algebris. Io non chiamo i singoli, io chiamo le persone. Alberto Gallo era nostro ospite anche quando lavorava in Bank of Scotland, ma secondo me è esperto, ci capisce, lo chiamiamo, no? Perché... allora andiamo sul traffico, perché poi invece vorrei parlare di pensioni, visto che oggi è intervenuto anche l'ex ministro Fornero. Dice: attenzione, sbagliato e rischioso rinviare l'aumento dell'età pensionabile dopo che lì è stato fatto sapere che viviamo 5 mesi di vita in più, e quindi dal 1 gennaio 2019 l'età della pensione per la vecchiaia sarà a 67 anni. Il tema vero mi sembra i lavori usuranti, come scrive anche oggi Sole 24 Ore, e ne parliamo dopo il traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Focus Economia. Allora, oggi l'incontro governo sindacati, di cui non vedo però ancora agenzie, iniziato verso le 16 con il premier Paolo Gentiloni, il ministro Poletti, il ministro Padoan e il ministro Madia, per capire l'ipotesi di congelare e rimandare al prossimo governo, se ho ben capito, l'ipotesi dell'aumento dell'età pensionabile vecchiaia a 67 anni. Il Sole 24 Ore oggi però fa notare che il rinvio, cioè, se si applicasse questo anche solo alle 11 categorie di lavori gravosi, lavori usuranti, questo ci coinvolgerebbe circa 15.000 persone se si andasse alla neutralizzazione fino al 2026. Una platea che però potrebbe arricchirsi se si rivedesse la categoria dei lavori usuranti, restando comunque sotto quota 20.000. Se si aggiungessero altre categorie, per esempio i siderurgici, gli agricoli, i marittimi, nella categoria dei lavoratori gravosi, dei lavori gravosi. Devo dire che il presidente dell'INPS Boeri ha detto, appunto, abbiamo tutti gli strumenti per capire, andiamo ad analizzare quando un lavoro è usurante e aggiornare e essere anche più puntuali nelle categorie dei lavori usuranti. L'ex ministro Fornero dice: il rinvio dell'aumento dell'età pensionabile è rischioso, sono scadenze stabilite per legge e queste scadenze vanno rispettate, rivediamo piuttosto la legge sui lavori usuranti e vediamo la possibilità di aggiungere certe categorie che per lavori che richiedono anche una prestanza non solo fisica e anche mentale facciamo delle eccezioni. Vorrei chiedere al professor Maurizio Ferrera, che insegna scienza politica alla Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali all'Università di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Se questa potrebbe essere una strada un po' concreta e pragmatica e meno, diciamo, da campagna elettorale, cioè non smontare la legge che fa partire gli adeguamenti dell'età per la pensione di vecchiaia in base all'aspettativa di vita certificata dall'ISAT, ma allargare la platea dei lavori usuranti con merito, cioè andando a vedere, come dice Boeri, in base ai dati che abbiamo, malattie, tassi di incidenza e quant'altro, quali lavori definiamo usuranti? Guardi, faccio una premessa prima di rispondere alla sua domanda, che questa questione va valutata all'interno più generale delle dinamiche del mercato del lavoro italiano. Noi abbiamo un elevatissimo tasso di disoccupazione giovanile, abbiamo un basso tasso di attività delle donne, ed è questo che rende così precario il bilancio del nostro Stato, in particolare il bilancio della previdenza. Allora, concentrarsi solo sulle pensioni e sull'aumento eventuale dell'età di pensionamento significa, come dire, pensare che le pensioni siano una variabile indipendente, e non lo sono, nella misura in cui il loro finanziamento grava sui lavoratori, e se ci sono pochi lavoratori diventa difficile finanziare le pensioni. La finanziaria di quest'anno, la legge di stabilità di quest'anno, ha in programma di introdurre delle misure per la promozione dell'occupazione giovanile, in particolare della riduzione del cuneo fiscale. Però le risorse che si immagina di mettere in campo sono basse, non sono sufficienti e soprattutto sono temporanee, mentre qualsiasi risparmio si andasse a introdurre sospendendo il meccanismo di adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita sarebbe strutturale. Cioè avrebbe un costo immediato e strutturale. Sì, un costo immediato strutturale che Boeri ed altri quantificano in circa 3 miliardi l'anno. Le risorse investite programmate dal governo per la riduzione del cuneo sono 300 milioni. Ecco, lascio giudicare a lei e ascoltatori la sproporzione di queste due. Però mi dica un'ultima cosa, professor Ferrara, l'idea di andare in maniera pragmatica e concreta, non ideologica, a capire quali lavori, in base anche ai dati che abbiamo dal Ministero della Salute, insomma, sono da considerarsi sicuramente usuranti e allargando la platea, la convince o no? Secondo me è l'unica alternativa che si può ragionevolmente considerare in questa partita, altre non ce ne sono, sarebbe illogico dal punto di vista economico bloccare per tutti, e sarebbe anche politicamente, come dire, inaccettabile, perché si conferisce a un sindacato che ormai rappresenta evidentemente solo gli interessi dei lavoratori pensionati, dei più anziani, di mettere una prelazione su quelle risorse che invece dovrebbero andare a beneficio di tutti, in particolare dei giovani. Perché se si riduce la base, diciamo, lavorativa, comunque bassa, è chiaro che poi ci tocca pagare più contributi per un maggior numero di pensionati. Il tenga presente che i contributi pensionistici che gravano sulle retribuzioni di chi lavora sono i più alti d'Europa. Già adesso, oggi, 33%. Certo. Nessun paese fa pagare così tanto per la previdenza pensionistica. E poi ci stupiamo se le nostre fiscale imprese fanno fatica. No, se c'è un cuneo fiscale che non è solo fiscale, è fiscale e contributivo, tra quello che becca il lavoratore in busta paga e quello che costa all'impresa. Devo dire che vedo anche, qualcuno mi scrive, ma insomma l'aspettativa di vita si è alzata per chi è andato in pensione a 50 anni o con il contributivo. E retributivo a passa la giornata a passeggiare, va in palestra, va in vacanza. Io, può essere che tutta una platea di fortunati, fortunatissimi pensionati che sono stati o baby pensionati o sono andati con retributivo, quindi con gli ultimi salari, e poi ci sono andati a un'età, diciamo, precedente ai 60 anni, facciano una vita piacevole, o comunque o alle Canarie o in Italia, non mi interessa, e alzi l'età pensionabile, l'età di vita. Però questa è una supposizione, non abbiamo un elemento statistico per dirlo. Altra cosa invece, nel ringraziare il professor Ferrara, che mi sembra assolutamente d'accordo, è dire, invece di fare tante campagne elettorali slogan, andate a stabilire dei criteri con cui si definisce un lavoro usurante. Prendiamo i criteri, appunto, di carattere sanitario, incidenza delle malattie e quant'altro, e vediamo quali lavori sono usuranti. Qualcuno non lo sarà, ma altri devono entrare. Aumentiamo la platea, perché lì, obiettivamente, l'insegnante il camionista che va avanti a lavorare a 67 anni, boh, non lo so, facciamoci anche una domanda. Grazie anche al professor Maurizio Ferrara, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi, torna anche con la classifica. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24. Libera la voglia di fare.